Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Sembrava un mercoledì di routine quello di ieri, visto che mancavano grandi appuntamenti, ma tra calcio internazionale e nazionale invece ci sono stati dei risultati a sorpresa. Allora andiamo con ordine, non certamente a Roma, dove si è ripetuto Vucinic nel senso dei gol, non degli spogliarelli, e quindi ha risolto in fretta da quando è entrato, cioè nel finale, la pratica dei quarti, degli ottavi di Coppa Italia, spingendo nei quarti la Roma ed eliminando il Bologna. Non a San Siro, dove la sorpresa è stata relativa, perché il Milan di questo periodo è palesemente stanco, soprattutto incerottato, e quindi il pareggio con il Folbul ci stava. Certamente complicherà un po' in prospettiva il sorteggio UEFA, visto che gli avversari del Milan a questo punto, nel sorteggio di domani per l'appunto a Nyon, dovrebbero essere una tra Bordeaux, Werder Brema, Shakhtar Donetsk, Marsiglia, Alborg, Dinamo Kiev e Zenit di San Pietroburgo. Niente che non sia alla portata del Milan, però vincendo ieri sera, eliminando e andando in testa al girone a danno del Wolfsburg, il sorteggio sarebbe stato anche più favorevole. La sorpresa vera è arrivata, vi dicevo, da Firenze, dove il Torino ha eliminato la Fiorentina e la Coppa Italia. Ora, per chi ha presente il grafico di rendimento più recente del Torino da una parte e della Fiorentina dall'altra, questa è stata certamente una grossa sorpresa. Direi la seconda di questa fase di Coppa Italia. La prima era stata, ma più relativa, la vittoria della Lazio a Milano sul Milan, ed è curioso che negli accoppiamenti automatici già stabiliti a monte dal tabellone di Coppa Italia, il prossimo turno nei quarti di finale preveda proprio uno scontro tra Lazio e Torino, con la Lazio col vantaggio del fattore campo, nel senso che si giocherà all'Olimpico. Stasera ci sono altre due partite in Leeds, altre due partite da disputare. Quella veramente difficile riguarda la Sampdoria, che deve assolutamente vincere contro il Siviglia a Marassi alle 20:45. Siviglia è una squadra di primo livello in Spagna, non sarà semplicissimo, mentre l'Udinese gioca a Nijmegen in Olanda e ha una situazione di classifica più favorevole. Abbiamo alcune voci da ascoltare su argomenti vari, poi il giovedì come sempre si ruoterà intorno a calcio ed economia con l'aiuto dei colleghi del Sole 24 Ore. Tra l'altro, a proposito di economia, vi anticipo di calcio ed economia, in questo caso non è calcio economia ma è calcio cronaca nera, c'è una novità, ne parleremo dopo con Marco Bellinazzo. La notizia di giornata è che il presidente del Siena, l'immobiliarista Giuseppe Lombardi Stronati, è indagato insieme ad altri nell'ambito di un'inchiesta su operazioni immobiliari, ed è accusato di appropriazione indebita, emissione di fatture false, omessa presentazione di dichiarazione redditi, omesso versamento di imposte, insomma non una situazione semplicissima per il presidente del Siena. Il primo intervento di oggi è quello di De Rossi. Sono contento, insomma, continuo giorno dopo giorno a coronare questo sogno, no? e a passare delle tappe che sembrano solo, insomma, per le scritture, per gli annali, ma a me rimangono dentro, no? Sì, l'Arsenal, altre squadre, sono tutte buone squadre. Noi abbiamo, sono due anni che becchiamo una squadra piuttosto, se vogliamo, no? Prima il Lione era considerata lo spauracchio principale, poi Real Madrid, siamo sempre passati. Non vorrei che incontriamo magari quella che sembra più abbordabile, ci creiamo tanti problemi. Catania è un'ottima squadra, campo difficile. No, paura no, paura assolutamente no. È certo che l'ultima volta che ci siamo andati sono successe tante cose che non sono normali su un campo di calcio, che i miei colleghi e le istituzioni dovrebbero sottolineare. Forse qualcun altro ha paura. Penso che non è normale che ci siano 2000 persone dentro al campo. Già. E 2000 persone dietro al campo, dice De Rossi, forse arrotonda un po' per eccesso, ma entro certi limiti. A questo proposito c'è una polemica molto, ma molto sgradevole, che è stata minimizzata da, mi pare, ai giornali, ma che non so se sia giusto minimizzare. È una frase di Cristian Terlizzi, difensore del Catania, rilasciata, pronunciata due o tre giorni fa, alla vigilia appunto di Catania-Roma. Totti è un grande campione, ma rimane un avversario come tutti gli altri, solo forse andrà picchiato un po' di più. Ora, a parte il fatto che è scattata un'inchiesta da parte della Procura federale, a parte il fatto che magari Terlizzi voleva dire un'altra cosa, ma non è detto, e comunque quella ha detto, ci sono alcuni precedenti tra Roma e Catania, come anche De Rossi ricordava, cioè, abbiamo tutti fatto finta di accettare l'ultimo Catania-Roma giocato all'ultima giornata del campionato scorso come una partita regolare, quando palesemente non lo era stata, con il campo appunto invaso da tutta quella gente che non c'entrava per nulla. Ora, che alla vigilia di una nuova edizione di Catania-Roma uno se ne debba uscire con una frase del genere, rimane un avversario come tutti gli altri, solo forse andrà picchiato un po' di più, ecco, diciamo che come minimo non è granché opportuna questa uscita. Andiamo in ordine sparso, come in questo periodo abbiamo fatto spesso. Zaccardo, di passaggio a Milano perché ha giocato con il Wolfsburg ieri sera contro il Milan, ha parlato di un suo possibile trasferimento alla Juventus. Sentiamo. Il mio procuratore non mi ha detto niente. Se ci fosse un'opportunità del genere sarebbe un treno da prendere al volo, però ripeto, non sappiamo niente, e quindi sono contento di giocare nel Wolfsburg e di fare bene per la maglia del Wolfsburg. Un ascoltatore che si firma Mirko e che è un autentico flagello, perché sono 5 giorni che pone la seguente domanda. È proprio sicuro che il Bologna attuale, con qualche innesto in più, non possa agganciare Siena, Cagliari e perché no Sampdoria? Se è lì a quasi metà campionato, un motivo ci sarà, io giurerei che ci può riuscire. Spero che almeno oggi mi rispondo. Rispondo Mirko, sì, ci riuscirà, così almeno la finiamo, ripeto, con questo flagello. Ci riuscirà certamente. Caro Mirko, a proposito di vicende che si trascinano da tempo, ma che insomma hanno certamente una discreta valenza in prospettiva, c'è quella di Amauri e della sua scelta di passaporto di nazionalità e quindi di nazionale. Sentiamo che cosa ha detto. Sono orgoglioso e molto onorato in sapere che tutti i tifosi italiani tifano per me, che possa arrivare il passaporto e che posso vestire la maglia della nazionale. Per me è un orgoglio immenso, non potete immaginare. Ecco. Il destino ti porta le cose più belle, diciamo così, inaspettabili. Non si sa, c'è la possibilità, è possibile come non è possibile. Beh, proprio che tutti gli italiani tifino per la naturalizzazione di Amauri non credo che sia vero. È molto bello che Amauri parli con questo entusiasmo, insomma, della prospettiva, questo sì. Poi insomma sull'unanimità si può discutere. C'è una dichiarazione di Gattuso, dato che Gattuso non è mai banale, questa l'ascolterei con una certa urgenza. Sofferto per un giorno e mezzo, devo dire che me la sono presa un po' come mio fisioterapista, perché mi aveva detto che era una passeggiata, invece devo dire che non è stata per niente facile. E siccome ho molta fiducia nel mio fisioterapista, allora gli ho creduto, però non è stato così. Però quando mi riprendo, una bella pizza dentro la testa gli arriva sicuramente. Non sono allegrissimo, perché però sono contento che l'operazione l'ho fatta, adesso sta a me recuperare, lavorarci sopra e tornare al più presto possibile. Insomma, era il Gattuso del primo decorso post-operatorio, mi pare che il buon umore non gli manchi da subito. Non so di quanto buon umore sia il fisioterapista in attesa della pizza di Gattuso tra le orecchie che gli ha già preannunciato. Vi ricordo che 800240024 è il numero per intervenire poi in diretta. Allarghiamo il panorama. Xavier Zanetti parla di campionato. Sentiamo. Scontato non è, perché mancano tante partite. Adesso speriamo di vincere questa sabato per finire bene questo 2008 e andare un po' in vacanza con il primato, e dopodiché tornare a lavorare per tutto quello che prosegue. Io credo che questo campionato è un campionato molto equilibrato, con tante squadre che lotteranno insieme a noi, sia il Milan, sia la Juve, la Roma piano piano si sta riprendendo. Non bisogna sottovalutare nessuno. la sconfitta del Milan non vuol dire niente, perché un scontro diretto ci può stare questa sconfitta, dipenderà se si riprendono già da domenica, però il Milan è sempre una squadra da rispettare, l'importante è che l'Inter continui ad avere questo passo. Il risultato della semifinale mondiale del Manchester United arriva prima da un ascoltatore che non dalle agenzie. Scrive Renato da Vittorio Veneto che il Manchester ha vinto 5-3 con l'Osaka e che a un certo punto stava vincendo per 5-1. Adesso poi le agenzie batteranno e ufficializzeranno questa anticipazione che arriva da un ascoltatore fedele, evidentemente, e anche appassionato. Andiamo avanti con la vicenda Adriano, che mi pare occuperà ancora le prime pagine in questo periodo. Gli sviluppi non sono certamente allegri, perché si parla pur sempre di un giocatore di grande talento e di grande possibilità, che già tante se ne è bruciate di queste possibilità e rischia di bruciarsene altre ancora. Sentiamo Moratti sul suo conto. Lo trovate molto intelligenti e giuste, umanamente valide e di grande stima nei confronti della persona oltre che del giocatore. Sembra che abbia spiegato bene, cioè l'intenzione è certamente quella di tenerlo, perché è un giocatore di grande potenzialità. Nello stesso tempo ci rendiamo conto quanto speriamo che lui sappia superare il fatto di avere un peso sulla schiena di questo genere, che qualsiasi cosa faccia o non faccia è costantemente inseguito e messo sul giornale. Questo lo mette in una condizione di vivere con difficoltà. Se il giocatore questo lo sa superare, tanto meglio, insomma. Per noi è facilmente gestibile e per lui può essere sostenibile, dipende un po' da lui. Con questo noi pensiamo che possa, positivamente pensiamo che possa gestirla e che noi possiamo gestirla, insomma. Io non vorrei smettere di parlare di Adriano, perché ci siamo sinceramente stancati. Fantastico Moratti, che non rifiuta l'intervista nemmeno a notte alta, però poi si è stancato di parlare di Adriano. Dunque, in Argentina è andato in scena il primo dei tre spareggi per il titolo del campionato di apertura. Sapete che sono tre squadre arrivate a pari punti. Ieri c'è stato per l'appunto il primo spareggio. Il San Lorenzo ha battuto il Tigre per 2-1, partita caldissima come sempre laggiù, e come in particolare con una posta in palio del genere, interrotta per 6 minuti dopo che il portiere del Tigre ha colpito con una sberla un avversario, Barrientos. Nel frattempo i tifosi hanno cominciato a scagliare oggetti in campo e seggiolini in plastica. Insomma, morale, la partita è finita regolarmente, si fa per dire, 2-1 per il San Lorenzo. Sabato la seconda, e sarà probabilmente quella decisiva, perché è quella tra San Lorenzo e Boca Juniors. Un ascoltatore campione, il primo di oggi, che si chiama Antonio, ha chiamato da Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Senta, io volevo fare una riflessione a proposito del difensore di Catania, che dichiara che Totti è un giocatore come tutti, con l'unica differenza che va picchiato un po' più degli altri. Ora, al di là del buon gusto, dato che c'è un'indagine federale in corso, io mi chiedo che senso ha fare un'indagine federale se poi questo signore lo facciamo giocare tranquillamente, con il rischio di condizionare un avversario. Se noi dessimo una volta tanto un segno forte, ok, allora tu fai queste dichiarazioni, non sei tempo di giocare, salti la partita, poi vedremo se è il caso di prendere altre sanzioni, ma quantomeno la partita fagliela saltare, magari potremo a educare i giocatori a essere un po' meno bambini, b educare il sistema calcio a essere un pochino più istruttivo nei confronti dei nostri figli. Io ho figli che giocano a pallone e che, ahimè, trovo assolutamente diseducativo che vivano battute di questo genere. Questo è quanto. Sì, devo dire che così mi sembra persino un po' troppo. Io credo che dopo una frase di questo genere quello condizionato sarà Terlizzi, credo, più che Totti, perché Totti non credo che farà nemmeno la piega. Credo che Terlizzi invece dovrà stare particolarmente attento anche a come, insomma, a come si atteggia, non soltanto a come entra. Sciocchezze in libertà se ne dicono da sempre. Il fatto che io ricordo il grande Padova degli anni 50, insomma, diciamo che aveva un atteggiamento vagamente intimidatorio anche nel pre-partita. Certo, è passato più di mezzo secolo, e ci si augurerebbe, dato che allora il calcio era un professionismo agli inizi, che che in provincia in particolare sapeva ancora di dilettantismo nel senso migliore del termine, effettivamente frasi come queste nel 2008 sono anacronistiche e anche abbastanza ridicole, oltre che profondamente inculturali. In questo lei ha certamente ragione. È vero ciò che dice l'ultimo ascoltatore, scrive Francesco Barbieri da Verona, ma il processo alle intenzioni non esiste. Queste sono le intenzioni dichiarate, cioè il processo alle intenzioni inespresse magari non esiste, potrebbe anche esistere le intenzioni dichiarate, anche se, ripeto, io continuo a pensare che sia eccessivo. Darei il bentornato a Marco Bellinazzo. Buongiorno. Bellinazzo è sceso ad un piano, come fa quasi ogni giovedì dal Sole 24 Ore, e la prima domanda di oggi, rivoluzionando, ma semplicemente cambiando un pochino la scaletta prevista, è automatica, e cioè questa indagine sul conto del presidente del Siena Lombardi Stronati. C'è un'indagine in corso su presunti, diciamo, reati che comportano un'evasione fiscale per svariate decine di milioni di euro. Diciamo che innanzitutto non è un'inchiesta che riguarda ovviamente l'attività legata al Siena Calcio, sì. Chiaramente avrà dei risvolti, perché Lombardi Stronati a luglio scorso è diventato presidente del Siena Calcio, ma è anche amministratore delegato, nonché diciamo titolare del pacchetto di maggioranza della società. Il nucleo della Polizia Valutaria e della Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni per 400 milioni di euro. La vicenda si inquadra, se vogliamo, in quella degli immobiliaristi degli anni 2005-2006, insomma, in cui il valore è salito alle stelle degli immobili, ha consentito pratiche non sempre lecite, e ne abbiamo avuti tanti esempi, e Lombardi Stronati viene accusato insieme ad altre 7 persone di aver in qualche modo, diciamo, effettuato delle compravendite di immobili con delle plusvalenze che non sono state dichiarate al fisco. Viene infatti accusato, diciamo, di vari reati, dall'appropriazione in debito, omessa dichiarazione di reddito, emissione di fatture false, insomma, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro c'è da dire che molti di questi reati sono coperti da indulto, visto che si sono verificati, insomma, tra il 2005 e il 2006. L'indagine andrà avanti. Dal nostro punto di vista, diciamo, punto di vista più prettamente sportivo, è chiaro che dei riflessi si aspettano qualora, sì, andasse avanti anche sulla struttura societaria del Siena Calcio. Sì, quindi il Siena non c'entra, c'entra però il suo presidente e amministratore delegato, e quindi è inevitabile che... È titolare del pacchetto di maggioranza. Quindi diciamo che è una, insomma, non è una buona notizia, e qualche rischio in prospettiva certamente c'è. L'argomento da cui saremmo partiti oggi, ma ci siamo già arrivati, è questo. Il boom delle scommesse sportive continua. In compenso è sempre più inarrestabile la crisi del totocalcio. Io credo che tra molti giovani la parola totocalcio sia abbastanza sconosciuta, vada digitata su Google per capire cos'è. Però il fenomeno si sta ingigantendo sia in un senso che nell'altro, mi pare. Assolutamente. I dati, gli ultimi che sono stati forniti sulle scommesse sportive, ci parlano di un incasso totale nel 2008 che arriverà a 4 miliardi di euro. Solo a novembre sono stati incassati 477 milioni di euro. Siamo, insomma, rispetto all'anno scorso, a percentuali di incremento che superano il 50%. C'è un vero e proprio fenomeno di massa che si lega in generale a quello che è la tendenza degli italiani a buttarsi sul gioco quando le cose economicamente vanno male, insomma, dal lotto ad altre forme, no, di scommesse o di giochi. È una tendenza che si sta verificando, certo, insomma, anche in altri settori. Però nel campo sportivo questo boom delle scommesse si accompagna invece ad una, diciamo, ad un lento esaurirsi di quella che era il fascino della schedina, insomma, sa un po' di Amarcord questa frase forse, ma insomma è così. Meno 23%, insomma, hanno incassato i vecchi concorsi pronostici rispetto al 2007. In tutto hanno incassato, si prevede, insomma, intorno ai 180 milioni, insomma, fenomeno pochissimo, sì, se confrontato, insomma, rispetto a Sì, no, 180 milioni di euro sono pur sempre 350 miliardi di cose, insomma la sua figuretta la fa ancora come cifra, per carità, però se parliamo dei tempi d'oro... Sì, se consideriamo che la schedina prima serviva a finanziare l'intero sport italiano e tutti i movimenti, e ne avanzava un bel po'. Peraltro ci sono due cose molto interessanti da notare, innanzitutto il fatto che... di questi 4 miliardi più del 25%, più di un quarto vengono dalle scommesse online. Ora non stiamo a scoprire l'acqua calda oggi, però il fortissimo incremento delle scommesse online, più di un miliardo di euro giocati online, significa insomma che c'è un fenomeno che ormai è del tutto importato rispetto ad altri paesi, ed è quello insomma di scommesse ormai su singole partite che piacciono di più. Poi bisognerebbe vedere, certo, e sarebbe interessante sapere quanto effettivamente gli italiani vincono, insomma, se questo conviene. Il dato positivo, diciamo, è che il boom di queste scommesse, diciamo, lecite e legittime, speriamo abbia comportato anche una riduzione di quello che è invece insomma il mercato clandestino delle scommesse, che insomma in certe realtà sappiamo essere piuttosto forte. Il tutto poi va condito con una considerazione, diciamo, di natura, se vuoi, più di politica, di gestione delle scommesse, perché oltre il 50% di queste giocate vengono effettuate ai nuovi punti che sono state aperti dopo le liberalizzazioni introdotte dal decreto Bersani di un paio d'anni fa, e quindi insomma il fiorire di punti vendita insomma sta caratterizzando, sta continuando. Tra l'altro è stata fatta anche una classifica di quelli che sono insomma le reti più amate dagli italiani, le reti di scommesse. Insomma, al primo posto c'è ovviamente SNAI, al secondo posto l'Automatica Better, al terzo Matchpoint. Insomma, però SNAI ha quasi il 37% dell'intero movimento. Se leghiamo tutto questo alla scommessa che è contenuta nella finanziaria di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e cioè garantire che quei tagli che sono stati fatti ai finanziamenti da parte dello Stato al CONI, circa 120 milioni, saranno coperti dall'incremento delle new slot, insomma, delle nuove slot machine, in generale delle giocate, delle scommesse sportive, avremo forse con questo incremento, con un maggiore amore degli italiani verso le scommesse, la possibilità di salvare molte discipline sportive che altrimenti insomma rischiano di fare bancarotta. Parliamo adesso del decreto legge anticrisi, già approvato a fine novembre e adesso all'esame della Camera, di questi nuovi controlli sullo sport dilettantistico, perché mi pare si riverberino in maniera interessante, e qui non stiamo più parlando solo di calcio, parliamo di tutto lo sport italiano. Sì, passiamo dal ludico, diciamo, allo sport inteso nella sua accezione più vera, o almeno quello che dovrebbe essere inteso nella sua accezione più vera, perché si sta creando uno strano meccanismo, diciamo, di severità nei confronti dello sport dilettantistico, almeno così viene denunciato da chi quel tipo di attività svolge, cioè da tante associazioni o società sportive che appunto praticano lo sport a livello dilettantistico, che ricordiamo godono di tante agevolazioni fiscali. Qualche anno fa, con la finanziaria 2003, CONI e Agenzia delle Entrate, cioè chi deve riscuotere le imposte, si misero d'accordo e affidarono appunto al primo, cioè al CONI, il compito di garantire, diciamo, di certificare quelle che sono le strutture realmente dilettantistiche e quindi che possono legittimamente godere di questi benefici. E al CONI è stato istituito un registro presso il quale, diciamo, associazioni e società potevano iscriversi, e in questo modo veniva loro riconosciuto automaticamente l'accesso ai benefici fiscali. Ora, a quanto pare, insomma, dalle parti dell'Agenzia delle Entrate o in generale dal Ministero dell'Economia ci hanno ripensato, perché ritengono che, come dire, che il CONI sia troppo di manica larga, che riconosca a troppe associazioni, a troppe società questi benefici. Il CONI ribatte dicendo che su una platea di circa 140.000, 150.000 realtà che possono, diciamo, appartenere al mondo dello sport dilettantistico, soltanto 63.000 hanno ottenuto il bollino blu e questa certificazione. Per l'Agenzia delle Entrate sono troppe ancora, perché evidentemente diciamo, si concedono troppi benefici, troppe sono le mancate entrate, e quindi ora il decreto anticrisi ha previsto semplicemente che il registro del CONI verrà abolito, comunque non varrà più per avere benefici fiscali, e quindi per tutte quelle associazioni o società che svolgono attività diciamo legate allo sport dilettantistico e che vogliono ancora ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge, si prevede una nuova procedura che dovrà essere definita entro la fine di gennaio, per cui dovranno direttamente inviare all'Agenzia delle Entrate i propri dati, insomma, rilevanti fiscali, e sarà l'Agenzia delle Entrate a dire chi è realmente un'associazione sportiva dilettantistica, una società sportiva dilettantistica, e quindi potrà godere dei benefici, e chi no, con tutte le incognite del caso, ovviamente. Certo. C'è da dire che ha ragione il Ministero dell'Economia nel momento in cui vuole frenare gli abusi. Per esempio, ricordiamo che ci sono alcune strutture tipo palestre che si qualificano come finte associazioni sportive e si fanno pagare quote di iscrizione che sono esentasse, e effettivamente è una pratica che andrebbe limitata. In questo caso è giusto il controllo burocratico. Assolutamente. Ci sono però tante piccole realtà che si muovono nel mondo del no profit e che invece dovranno sobbarcarsi una nuova procedura telematica, probabilmente nuovi controlli da parte del fisco. E in questo caso il ritorno della burocrazia, il prepotente ritorno, era un po' meno auspicabile. E soprattutto il principio che sia il CONI a gestire lo sport dilettantistico viene messo in discussione. Ora, io credo che in sede di conversione del decreto legge in Parlamento qualche ritocco a questa norma sarà fatto, perché Petrucci non sarà tanto contento di d'accordo questa disposizione. Su questa impostazione. Nel frattempo è arrivata la conferma: il Manchester United ha vinto 5-3 la sua semifinale. Torniamo in onda, ci sono già degli ascoltatori collegati per intervenire. Avrei ancora un paio di domande per Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Il primo: c'è qualche altra curiosità / insidia tra le pieghe della finanziaria? Sì, diciamo un paio. Quella più interessante sicuramente riguarda la richiesta dei comuni, che hanno appunto proposto di eliminare dal patto di stabilità interna, i comuni devono rispettare una certa soglia di tra spese ed entrate, però sappiamo anche che i comuni hanno la proprietà degli stadi, del 98% degli stadi e degli impianti in Italia, sì. e hanno anche le spese di gestione a loro carico o di ristrutturazione, soprattutto di messa in sicurezza. Per questo hanno chiesto in particolare alla finanziaria nell'ambito della finanziaria di eliminare le spese sostenute per ammodernare gli stadi dal patto di stabilità. In sostanza dovrebbero essere soldi che impiegati semplicemente per fare questo tipo di investimenti, ma che escono fuori dal conteggio delle spese complessive. Tra l'altro, questo si lega al fatto che è stata accusata il mondo dello calcio dilettantistico di essere quello più violento, no? Dove si verificano ancora incidenti, mentre la situazione sarebbe migliorando a livello di calcio professionistico. È intervenuto in settimana Carlo Tavecchio, che è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il quale ha ricordato innanzitutto che a livello di calcio dilettantistico si giocano oltre 700.000 partite all'anno, e quindi si deve, gli incidenti rispetto a questo numero enorme di partite sono 5.000 invece quelle dei tornei professionistici. Sì, non dovrebbe esserci nemmeno uno, ma il tasso fisiologico è molto basso. E tra l'altro lui ha ricordato che in molti casi questo avviene perché gli stadi non hanno appunto strutture di sicurezza. In oltre 20 stadi di piccoli comuni mancano addirittura le barriere, per cui è più facile che accada questo tipo di incidenti. Un'altra piccola curiosità che ho spulciato ieri riguarda un emendamento che è stato proposto al DL anticrisi, sempre quindi nell'ambito della manovra. È stato proposto uno conto fiscale per chi impiega giovani calciatori tra i 14 e i 19 anni, in particolare per le squadre di calcio di C1 e C2, un piccolo emendamento che dovrebbe costare uno sconto fiscale circa 80 milioni, non so quanto Tremonti sarà d'accordo, ma è stato proposto, la vedremo, seguiremo. Sarebbe più d'accordo la FIFA, probabilmente anche l'UEFA. Tremonti è da vedere, perché sono tutte risorse in meno che entrerebbero. Io farei un breve finale su questo patteggiamento che la Juventus ha chiesto per le plusvalenze gonfiate dalla precedente gestione. Sì, è la vicenda in cui erano state implicate anche Inter e Milan, che poi a gennaio 2008 sono state prosciolte, sia le società per la responsabilità amministrativa che i dirigenti, Adriano Galliani, i dirigenti dell'Inter che erano stati coinvolti, anche se avrebbe chiarito bene perché, per come, comunque in ogni caso c'è stato un proscioglimento. Per quanto riguarda la Juve, il processo sta andando avanti, lo aggiorniamo in questo senso. La società Juve ha chiesto il patteggiamento, quindi quindi in qualche modo insomma ha riconosciuto che c'erano state delle come dire, operazioni non proprio corrette dal punto di vista fiscale, quindi diciamo ha ammesso in qualche modo le proprie responsabilità. Di prima pagherà una multa insomma di 70.000 anziché di 500.000 se il giudice insomma accetterà il patteggiamento, mentre per quanto riguarda le persone fisiche coinvolte, Giraudo, Bettega e Moggi, hanno chiesto insomma nuove perizie e il processo insomma si concluderà a gennaio, vedremo l'esito, insomma monitoreremo anche questa situazione con l'anno nuovo. Grazie Marco. Grazie a voi. Allora, Marco Bellinazzo prende congedo tra poco ed entrate in scena, tornate in scena voi. Claudio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire in riferimento alle dichiarazioni del difensore del Catania, in riferimento all'ultima partita di campionato in cui c'è stata l'invasione di campo e dove appare all'evidenza che il risultato è stato condizionato, perché la Roma poteva vincere tranquillamente se non avessero avuto i giocatori timori della minaccia evidente. Claudio, poteva vincere o poteva perdere, questo è un altro film. C'era un numero pazzesco di persone presenti ai bordi del campo in atteggiamento non proprio pacifico. Fermiamoci lì, no? Che tanto vista la visibilità del calcio, è un episodio molto grave e secondo me il Catania non doveva stare in Serie A, perché ha danneggiato la Roma e va bene, il campionato l'ha finito, ma soprattutto le altre squadre sono in Serie B e lì la federazione non è intervenuta ed è un brutto esempio, perché in questo caso chi si è comportato male è stato premiato e invece chi si comporterà bene non sarà premiato, quindi è un brutto esempio visto la visibilità del calcio nei confronti delle altre squadre, ma anche dei giovani spettatori, dei tifosi, tutti quanti. Quindi volevo dire questo, che secondo me la federazione interviene quando non gli va ad intervenire, perché magari sono interessi sotto che deve... Ma non è che secondo me non erano interessi sotto, secondo me è che era l'ultima giornata di campionato e con tutto quello che era successo in quella stagione, visto che non c'erano stati, lo dico con molto cinismo, alla Matarrese né morti né feriti, però lo dico al contrario, visto che non c'era stato questo... Ambrasson nu alla fine, come dicono a Catania per l'appunto, e quindi non ne parliamo più, come dicono anche a Roma, intendiamoci, in ambito federale. Da Milano, Davide, buongiorno. Buongiorno. Dica. Anticipo gli auguri di buon anno. Grazie. E di buon Natale. Altrettanto, sì. Poi volevo segnalare due cose. La prima è che domenica scorsa, per la partita Inter-Chievo, il biglietto più economico, e parlo del terzo anello, veniva 22 euro. Però. E questo è per segnalare, poi ognuno poi ci faccia le proprie riflessioni. Uh-huh. E già questo mi sembra abbastanza. Infatti lo stadio era mezzo vuoto. Mi ricordo che quando c'era Ronaldo lo stadio era sempre pieno, con qualsiasi squadra si giocasse. Prima cosa. Seconda cosa, due anni fa al terzo anello di San Siro hanno messo dei cristalli altri 2 metri. Uh-huh. E sono 2 anni e mezzo in pratica che non vengono mai, assolutamente mai puliti, e dunque sono quasi opachi, e metà del terzo anello, di tutto sia rettilineo che delle due curve, non riescono a vedere la partita perché sono talmente sporchi che solo l'ufficio di igiene potrebbe chiudere su. A proposito di servizi, no? E di buon trattamento nei confronti dei tifosi, sa cos'è Davide? Probabilmente che a Milano c'è talmente un buon clima, è talmente salubre la città e se Dio vuole non sa cosa sia l'inquinamento, che probabilmente si sono dimenticati di dare una pulitina, sarà certamente questo. Grazie. Giovanni Salerno, buongiorno. Sì, dottor Garanzini, buongiorno. Volevo solo fare una mia riflessione sulle non dichiarazioni del dottor Galliani all'indomani della partita persa purtroppo con la Juventus. Io rimango male innanzitutto come sportivo, perché poi una buona analisi da chi è responsabile di un settore va sempre fatta, anche quando, innanzitutto quando si perde, credo. Poi vorrei dire, prendiamo esempio proprio da questa società Juventus, che nonostante abbia subito 2 anni fa l'onda della Serie B, ha saputo con scelte oculate, con ragazzi vogliosi di mettersi sulla scena, ha saputo raggiungere oggi i risultati che tutti stiamo osservando. Io penso che sia arrivato oggi il momento di togliere dall'imbarazzo anche l'allenatore del Milan, il povero Ancelotti, che a questo punto non sa nemmeno più che cosa dire e dove appellarsi, in cui quando si sente purtroppo dire anche il presidente qua bisogna andare solo a Fatima, ma non so dove, a Lourdes, a farsi un bagno, io credo che bisogna farsi un bagno di di un esame di coscienza e di umiltà, dire chiaramente ai tifosi del Milan che questa società sono ben diversi anni che fallisce negli obiettivi che si propone. Giovanni, che fallisce è una squadra che ha vinto la Coppa di Intercontinentale un anno fa e la Coppa dei Campioni sei mesi prima. Se queste sono le società che falliscono, le altre cosa sono? Io non riesco veramente a capire, o meglio, capisco benissimo che il tifo fa male, però ci sono dei limiti. Poi se lei mi parla di programmazione e di proiezione nel futuro, allora possiamo discutere a lungo, e ha probabilmente ragione lei, anche se è in arrivo Beckham sabato, ma credo che se invece parliamo di, se lei mi dice che sono anni che il Milan fallisce, allora abbiamo un concetto di calendario e di fallimento molto... molto diverso. Gianluca scrive da Milano: l'ascoltatore di prima dovrebbe dire anche che ai bambini per Interchievo davano il biglietto gratis. Lo dico io, visto, fidandomi di Gianluca da Milano, perché sinceramente non c'ero. Un altro milanese in linea, Michele, buongiorno. Sì, io non sono, buongiorno, non sono proprio milanese, sono genovese, attualmente a Milano, quindi mi chiamavo da Milano ma sono genovese. Sì. No, io volevo riferirmi al discorso dei cattivi esempi dati dalla federazione. Sì. Uno è lampante, sono le squalifiche di questa settimana per una giornata a calciatori che si sono resi protagonisti di interventi da codice penale. D'accordo con lei. Tipo quelli di Atalanta, Genoa, che sono costati un grave infortunio a Palladino. Se la federazione non dà come esempio un intervento veramente pericoloso nei confronti poi di un collega, perché poi si parla, certo, di lavoratori, lavoratori no, le ripeto, perché come dice Bagnoli, che lei da Genova dovrebbe aver coltivato, il lavoro il laureale è un'altra roba, per carità. Però cioè, voglio dire, metterli al pari di una sanzione per una doppia ammonizione magari per proteste è abbastanza pazzesco, veramente. Sono d'accordo con lei, se è vero, io non l'ho letto ma non ho riscontri certi, anche se penso che sia vero. Se è vero che Palladino se ne fa per 2 mesi, questo è uno di quei tipici casi in cui dovrebbe scattare la squalifica a tempo, che siano 45 o 60 giorni per rivalta. Ripeto, 45 o 60 sono le prognosi che si stanno facendo, non ha importanza, cioè quando Palladino è ben guarito ed è in grado di tornare in campo, ci torna anche rivalta per falli di quella gravità. Io credo che questa sarebbe una sanzione adeguata. E lei ha ragione, invece siamo non lontani, lontanissimi da questo. Torniamo in onda con la prognosi che il Genoa ha ufficialmente comunicato. Palladino è stato sottoposto a una serie accurata di eccetera eccetera, risonanze finché ce n'è, morale. Sulla base dei referti, lo staff sanitario stima in circa 45 giorni il recupero per la guarigione completa e il ritorno effettivo sul campo di gioco. Ecco, io credo che, speriamo siano anche meno di 45, magari invece saranno 50, io credo che per un fallo di quella violenza, di quella gravità, a metà campo oltretutto, quindi da dietro, con tutte le aggravanti del caso possibile, col fatto che l'avversario era entrato 4 minuti prima, che quindi l'intenzionalità è certamente superiore, io credo che dovrebbe essere veramente quella, potrebbe essere veramente quella la sanzione. Allora, come anticipato dal nostro fedele ascoltatore, 5-3 in Manchester in questa semifinale mondiale contro il Gamba Osaka, già il Gamba Osaka fa discretamente comico. Allora, il gol di Vidic, di Cristiano Ronaldo nel primo tempo, nel secondo 2 di Rooney e 1 di Fletcher, totale 5-3, ma con gli ultimi 2 gol giapponesi nel sottofinale e nel finale. Ha chiamato Marino da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo solo completare la sua informazione riguardo al palmarès del Milan, sì, di cui aveva parlato ieri. Allora, esattamente, il Milan ha vinto 45 trofei, sì, escludendo le 2 coppe latine degli anni 50 vinti dal famoso Milan del trio Grenoli. Per ciò che riguarda invece i trofei vinti dal dottor Berlusconi, sono esattamente 26, E quelli che ha vinto invece il signor Bernabeu sono 29. Il geometra Bernabeu. Sì, 29. No, io le dico esattamente quello che è, dato che lei ieri ha detto 32 e i trofei vinti dal Milan e sono 45. I trofei vinti dal dottor Berlusconi sono 26 e i trofei vinti dal dottor o signor Bernabeu sono 29. Questo per specificare. Sì, io ho davanti due tabelle, Marino. Mi dicono che nell'era Berlusconi sono arrivati 7 scudetti, 5 coppe campioni, 3 coppe intercontinentali e una Coppa Italia, che mi sembra veramente un palmarès straordinario, e lo dico per l'ennesima volta, più 5 supercoppe europee. Passo dall'altra parte, dal professor Bernabeu. 5 Supercoppe europee non le ha vinte perché allora non c'erano, cioè non si giocava la Supercoppa europea. E nello stesso tempo, in questo stesso periodo, Bernabeu ha vinto 16 scudetti, 6 Coppe dei Campioni, 6 Coppe del Re e una sola Coppa intercontinentale. Non so, sinceramente, non. Direi di uscire dall'asilo. Ecco, se riusciamo dall'asilo, mettiamo giù la merendina e torniamo tra gli adulti, poi possiamo fare tutti i conti e i numeri e le considerazioni che vogliamo. Da Como, Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica, buongiorno. Per la trasmissione. Sì. Io seguo Radio 24 tutto il giorno per il mio lavoro nel marketing, e appunto nella sua trasmissione mi viene sempre da pensare questo, anche perché lei di tanto in tanto lo sottolinea, la banalità delle risposte che alcuni giocatori, alcuni componenti comunque nel calcio vengono poi a fare, ma a mio avviso non è la banalità dei calciatori o degli allenatori, è la banalità delle domande che fanno i giornalisti, come è la banalità di alcune trasmissioni e alcune testate giornalistiche. Quindi a mio avviso è una cosa che è del tutto personale. Io punterei più sui prodotti di nicchia, perché appunto come marketing io ho sempre puntato sui prodotti che danno più soddisfazioni, nel senso che se dal martedì al venerdì si parlasse degli sport cosiddetti minori, che poi minori non sono, perché danno più soddisfazioni sicuramente che il calcio a livello internazionale, forse si riuscirebbe a evitare questa banalità che a volte appunto sottolinea anche lei. Quindi in pratica, Carlo, lei mi vuole tagliare fuori? Questo è il vero, è la sua vera intenzione. Non ho capito. Vuol tagliarmi fuori, vuole che mi dedichi ad altro. È un giornalista che ha anni sulle spalle, quindi sì, ma non sono in grado di occuparmi di altri sport perché non ne so nulla e non mi interessano nemmeno minimamente, e quindi lei vuol tagliarmi fuori. Però vede, quando mi scusi se le rubo un minuto, come un presidente, lo sentivo prima la trasmissione, no? Gentilissimo come sempre Moratti, io non sono interista, però le persone insomma bisogna, è sì, disponibile a dare le risposte anche a notte tarda, e poi dopo si dice è banale, si parli di Adriano, ma sono le domande che fanno, e poi dice adesso sono stufo, allora se uno è gentile prende del banale, se uno non sempre. Non sempre, io non lo so, perché quando fanno le trasmissioni dopo il calcio così, guardi, domande. Carlo, siamo al secondo minuto e mezzo, abbia pazienza. Mi scriva a Radio 24, la mail della radio è nota, mi scriva e insomma ne parliamo per iscritto, ma non possiamo sinceramente togliere spazio ad altri, a parte il fatto che devo ancora mandare in onda la rubrica di storia oggi, e quindi intanto Nicola Filippone. Ieri. 18 dicembre 1899. Un articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport annuncia ufficialmente la nascita del Milan Football and Cricket Club, il cui atto di fondazione era stato firmato due giorni prima. La prima sede sociale viene stabilita a Milano presso la fiaschetteria toscana di via Berchet. A capo del progetto ci sono due grandi appassionati inglesi residenti in città. Il primo presidente è Alfred Edwards, ex viceconsole britannico. La sezione calcistica è invece affidata a Herbert Kilpin, che assume il duplice ruolo di allenatore e capitano e che guiderà la squadra alla conquista dei suoi primi 3 scudetti. Vogliamo il calcio dal lunedì alla domenica, scrive Fabio dalla Spezia come risposta immediata. Non è giusto nemmeno questo. Io credo che ci siano dei giorni in cui, ma è una questione di competenze, sicché è inutile che io mi occupi di sport minori perché sinceramente nulla ne so e poco, molto poco mi interessano, tanto vale essere sinceri in queste cose. Da Pisa ha chiamato Leonardo, buongiorno. Buongiorno dottor Garattini. Mi dica. Era solo per una precisazione, perché sì, per lo sport, tutti siamo d'accordo con lo sport nel finanziarlo, ma era per quello che riguarda il finanziamento al CONI. Io sono un operatore del settore dell'automatico, regolarmente iscritto, regolarmente autorizzato, in cui opera in questo campo da moltissimi anni. È avvenuta una cosa abbastanza strana: per finanziare i soldi al CONI sembra che siano stati presi dal settore del gioco. No, non è così. Per finanziare il CONI e l'Unire, città che viaggiano costantemente in carrozzoni tipo Alitalia, che continua a viaggiare costantemente, vengono presi dagli operatori, cioè dalle tasche degli operatori dell'automatico. È un po' diverso dal dire sovvenzioniamo, cioè vale a dire, in un settore che nonostante la crisi in qualche modo riesce a poter andare avanti, si estromette l'1,40%, pari a qualcosa come 300 milioni di euro l'anno, tanto per parlare di cifre abbastanza concrete. Questi 300 milioni ne vengono dati 100 all'Unire e 100 al CONI per foraggiare queste situazioni. Era solo l'unica occasione forse che io ho avuto per poter far sapere magari a chi ci ascolta che non è che ci sono dei buoni, ma stiamo impoverendo delle attività, qualcosa in cui ci lavorano come 50.000 persone direttamente e 100.000 come indotto. Impoverendo non mi sembra un termine appropriatissimo, sincerità, anche perché non mi sembrano lavori socialmente. Comunque ne farò riparlare alla prima occasione Marco Beninazzo, perché è un altro di quegli argomenti cui assolutamente non sono all'altezza, e dato che sono delicati preferirei astenermene. Volevo ringraziare Filippo Aureggi in regia e Flavio Suardi in redazione, ringraziarvi per i vostri interventi e per la vostra partecipazione appassionata come sempre, in particolare quello che ci ha dato in anteprima il risultato del Manchester United, e lasciarvi aggiornare radio.